infatti tra qualche secondo cadrà. No, no, va benissimo. Sono alle prese con il microfono e infatti lo guardo anche abbastanza stupita, perché credo che, come una delle torri gemelle, prima o poi cadrà. E invece speriamo proprio di no. Bene, siamo in pieno fervore calcistico, tanti, tanti tifosi in giro per il mondo, inchiodati alla TV, alla radio, chissà perché no, nello stadio, negli stadi, in quei bellissimi stadi, almeno così sembra quello che o almeno quello che abbiamo potuto vedere finora. Aspettavamo i campioni del mondo alla gara d'esordio. Diciamo che è andata bene. Diciamo che abbiamo sentito solo le vuvuzela. Abbiamo sentito solo le vuvuzela, di cui tanto si parla e si chiacchiera anche nei giornali. E insomma, è andata bene. Il Paraguay, era il Paraguay, giusto? Sì, sì, il sì. Paraguay è sicuramente, non è, no, da, è, si è difesa bene. Ma sì, rispetto al pareggio di oggi tra Nuova Zelanda e Slovacchia, voglio dire, che fa ben sperare, perché se insomma il livello è quello, allora tutto sommato anche coi vecchietti si può giocare bene. Certo. Poi magari se non c'è tanta pioggia e c'è un raggio di sole, forse insomma si può sperare di ottenere qualcosina in più. I campioni del mondo ovviamente sono, così come la chiamano in Belgio, la squadra, noi li chiamiamo la nazionale, gli azzurri. Io saluto in particolar modo Montolivio. Noi salutiamo Montolivio, io saluto personalmente Pepe, è stato bravissimo, infaticabile, instancabile, ha praticamente credo percorso ogni centimetro del campo ieri sera durante la partita. Rimettiti in moto per domenica, perché noi siamo tutti con te. Tra l'altro proprio ieri sera, mentre avevamo deciso di assistere alla partita presso la Casa dell'America Latina, giusto per avere un po', insomma, un ricordo diverso, un approccio multiculturale alle solite partite magari monotematiche del tricolore italiano, alla fine del match ci viene chiesto come mai l'equipe italiana ha il colore azzurro della maglietta, perché ovviamente l'azzurro non è nel tricolore italiano. È la domanda, mi pare lecita. È la domanda, effettivamente era lecita. Quindi oggi io rispondo prima a voi, poi non appena rivedrò questo nostro amico cileno gli risponderò. Ebbene, noi indossiamo la maglietta azzurra dal lontano 1911, perché fino ad allora, ebbene sì, anche prima c'era una forma comunque magari embrionale di nazionale di calcio, la maglietta era bianca. Fu deciso di avere la maglietta azzurra dal colore dell'azzurro dello stendardo della famiglia dei Savoia, tant'è che quell'azzurro è anche noto come azzurro dei Savoia o blu dei Savoia. Quindi insomma ci faceva piacere condividere questa informazione anche con voi. Insomma sono tanti i tricolori che insomma vediamo un po' dappertutto, anche a Bruxelles, quindi immaginiamo quale possa essere la festa in Italia, nonostante le polemiche, i dibattiti. Insomma, poi in Italia ci sono probabilmente 57 milioni di allenatori. Di allenatori della nazionale ce n'è soltanto uno insomma che è a fine mandato, e un prossimo che probabilmente avrà il piacere di rivoluzionare tutto. Quindi noi intanto non possiamo far altro che augurare alla nostra nazionale all the best and lots more. Insomma, speriamo di rivedervi in finale, noi tutti ci speriamo. Vi ricordiamo che per quanti volessero o comunque non sapessero ancora dove poter assistere alle partite dell'Italia, c'è il Teatro San Michel, che quindi domenica alle ore 16 ospiterà le partite dei nostri azzurri, così come il 24, e poi hanno deciso anche gli organizzatori dei sette peccati capitali di dar vita anche poi agli ottavi di finale, quarti di finale e così via. Quindi noi abbiamo avuto Gianni, uno degli organizzatori, nostro ospite la settimana scorsa, quindi ci fa piacere ricordare ancora questo avvenimento. Come diceva Dani M, così chiudiamo anche la parentesi calcistica, i nostri rivali hanno pareggiato, quindi Nuova Zelanda e Slovacchia hanno chiuso 1-1, fortuna che i neozelandesi hanno pareggiato al 93esimo, quindi chiunque abbia segnato lo ringraziamo, e ci affidiamo quindi alle sorti per la nostra nazionale, quindi Italia-Nuova Zelanda domenica 20 giugno alle ore 16. Veniamo invece ai nostri appuntamenti. Saluto intanto anche la nostra Imola, Buonasera. Giorgetto arriverà e in mille faccende affaccendate, quindi insomma il traffico bruxellese del martedì, soprattutto in questi giorni, non so se avete notato, c'è tantissimo traffico, apparentemente dovuto insomma un po' ai lavori in corso, un po' perché ci sono problemi vari e diversi. Comunque non mi sembrava di aver percepito mai così come in questi giorni un traffico così intenso, così come ci è capitato di vedere. Forse perché finalmente c'è un po' di sole, finalmente. Sì, forse che tutti scappano dall'ufficio per andarsi a vedere la partita a casa. Probabilmente, forse c'è anche l'euforia mondiale, quindi è bene viverla. D'altronde sono tante le nazionali che si incontrano, è una comunione di popoli, oltre che di calcio. È stato tra virgolette curioso vedere il Ghana vincere contro la Serbia, per esempio, e tanti altri risultati magari sorprendenti arriveranno. Il Brasile, tra l'altro, dovrebbe proprio aver cominciato da una mezz'oretta. Sì, vi aggiorno sullo 0-0. E quindi, insomma, era una delle nazionali più attese. E per il momento non ci sono state grosse novità, insomma, né è emerso per il momento ancora un grande leader. Staremo a vedere magari la prima partita, pure per abituarsi al clima abbastanza tropicale, mi è sembrato di capire, sudafricano. E, insomma, magari poi ci aggiorniamo con i risultati del Brasile. E ora invece torniamo alla nostra agenda culturale. L'agenda culturale, come sapete, quella di Bruxelles è un po', vive momenti alterni, a volte molto ricca, altre volte insomma lascia un po' a desiderare. Ovviamente cerchiamo sempre di dare voce ad eventi che possono in un certo senso interessare un po' tutti. E prima di passare la parola al nostro ospite telefonico, magari ricordiamo un paio di eventi, così che da non ridurci sempre poi a fine serata, così insomma con la corsa contro il tempo, le parole mozzate a metà, a volte in uno strano misto italo-francese, anche, o chissà, forse anche un po' di fiammingo. Bruxellese, no, dai, ci sto. Poi martedì dico che comunque di eventi non ce ne sono tanti, ma pochi ma buoni, direi. Ce ne sono pochi ma buoni, in effetti. Per esempio, 10 anni del Museo degli Strumenti Musicali, 10 giorni gratuiti. E io, per quanti non abbiano ancora visitato questo museo, veramente consiglio vivamente di visitarlo, perché non solo ci sono circa 8.000 strumenti di musica che vanno dal 1100 ai giorni nostri, ma anche perché credo sia un'avventura straordinaria per quanti amano la musica, perché questo museo ha come particolarità non solo quella di mostrarvi gli strumenti musicali, ma di poter ascoltare anche il suono dei diversi strumenti, quindi potete veramente ascoltare di tutto. E immaginate che all'anno questo museo, comunque molto particolare, sul Monte Esar, raccoglie 2,5 milioni di turisti, quindi insomma è sicuramente uno di quei luoghi, per quanti vengono a Bruxelles, assolutamente da visitare. Allora, dall'11 al 20 giugno l'entrata è gratuita, quindi già questa è una buona notizia, anche se in genere poi l'entrata effettivamente costa solo 2 euro se non sbaglio. E per quanti amassero anche la buona tavola, la buona cucina, proprio insomma sul terrazzo del museo c'è uno squisito ristorante con tanto di veduta, secondo me poi una delle più belle di Bruxelles, dove quindi potrete anche vivere questo momento particolare veramente da turisti, ma anche per quelli che sono qui da tanto tempo e volessero riscoprire quelle che sono le bellezze e gli angoli di Bruxelles. L'apertura è dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 16.45, alla domenica invece dalle 10 alle 16.45. Quindi ricordate, dall'11 giugno, quindi già da qualche giorno, affrettatevi perché è proprio fino a domenica 20 giugno. Ovviamente sì, l'indirizzo è Montagne della Courde al 1000 Bruxelles. Poi la location è bellissima di questo museo, è in un palazzo Art Nouveau. È in un palazzo Art Nouveau, in una casa Old England, così come viene insomma facilmente riconosciuta, e quindi insomma ci fa piacere veramente ricordarla. Invece, per quanti ritorniamo un attimo nuovamente al calcio, c'è il World Cup Village che dall'11 giugno per l'appunto si tiene presso l'Espace 53, dove tutti, sia all'interno che all'esterno, potranno assistere a quelli che sono gli eventi calcistici più importanti. Ovviamente fino all'11 luglio l'entrata è gratuita, quindi insomma per quanti ancora non avessero deciso c'è pure questa possibilità magari un po' più multiculturale e non solo legata alle attività italiane. Festa della musica 2010, per il 7º anno consecutivo, il sito della Place des Palais che in genere riesce ad raccogliere circa 40.000 spettatori ogni anno, celebra quindi la sua 26ª festa. C'è un po' di tutto, un po' di ritmi, un po' di gruppi belgi, europei, internazionali, quindi insomma per una ambiance molto familiare, nonché magari eclettica. C'è un po' di tutto, per quanti volessero saperne, Fête de la Musique. Si comincia il 19, quindi il 19 giugno alle ore 17 presso Place des Palais 1000 Bruxelles. Ora invece passiamo ad un argomento magari un po' più serio, che è l'opera ed il concerto, e parliamo del Macbeth di Giuseppe Verdi, che riesce a rivivere splendidamente, diretto da Paul Daniel con una mise en scène di Christoph Walikowski, e questo tra l'11 e il 30 giugno presso il teatro La Monnaie. Tariffe abbastanza modiche, dai tra i 10 e i 104 euro, e ovviamente per quanti volessero riservare www.lamonnaie.be. Ed infine questo lo lasciamo dire a George, va, che è molto carino, così insomma arriva subito in trasmissione. Mappa 1, faccio neanche a tempo. Hai visto, io subito ti lascio raccontare. Cari amici vicini, lontani, buonasera. Io credo che il mio microfono questa sera crollerà. A un certo momento mancherà alla colonna portante, mancherà proprio il supporto e paf, cadrà. Beh, me l'ha fatto dire a me, perché me lo fai dire a me? Beh, lo capisco. Perché Sex tu and City of Love, Brussels. Aha. Benvenuti nella giungla brussellese con Carrie nella celebre serie Sex and the City, Carrie. E vabbè, si parlerà di relazioni uomini-donne con Charlotte, evocheremo le gallerie, i luoghi, le tracce di Miranda, insomma, decretteremo il mondo degli affari seguendo l'impulso di Samantha. E insomma, un cocktail amoroso di storie, scoperti, boutique insolite e di aneddoti. Wow, people. Allora, quando è? Beh, allora, intanto il sito www.itinéraire.be, all'escalier au Lyon de l'Hôtel de Ville Grand Place Bruxelles, 8 euro. Bene. Allora, quando? state attenti, perché è il 19 giugno. Bene. E il 21 agosto. È la domenica, il 21-11. Alle 2. Bene. Alle 2. Per un prezzo abbastanza modico, dai. Mo sì, modico di 8 euro, insomma. Comunque, comincia alle 2 il sabato 19 giugno e 21 agosto. Io ci sono 19, ci sono anche il 21, eppure a novembre ci sono, quindi me le faccio tutte. Nel senso, mi faccio tutte le date. Ecco, faccio tutte le date e vado a vedere se abbiamo capito. Allora, veniamo invece al nostro ospite di questa sera. È un ospite molto caro a Bruxellando, forse perché fu uno dei nostri primi ospiti durante la prima serie, e quindi è un po' come se fosse un nostro primo amore, se vogliamo. E come tutti sapete, i primi amori sono quelli più difficili da dimenticare. Stiamo parlando di Silvio Minieri, del quale, come avrete potuto notare sul nostro blog, abbiamo trasmesso una raccolta di racconti recitati da professionisti, uno dei quali è ispirato ad alcuni personaggi a noi molto molto noti. Prima di parlare con Silvio al telefono, ascolteremo proprio dalla voce di Silvio quali sono le sue ultime novità letterarie, magari non solo letterarie ma anche di viaggio, perché lui ha anche un eccellente viaggiatore. Vogliamo proporre un primo sketch di questo suo racconto, dal titolo abbastanza curioso e particolare, Il filo macabro delle marionette, e ascoltate bene chi sono i due protagonisti. Il filo macabro delle marionette. Dialogo nel Palazzo di Giustizia di Bruxelles tra un visitatore e la consorte defunta, in occasione della mostra d'arte Corpus Delitti, ivi tenutasi dal 25 settembre al 21 novembre dell'anno 2008. George! Chi è? Che vuoi? Che cosa voglio? Osi ancora domandarlo. Mari, dove sei? Ti nascondi, Mari? Sono qui, non mi vedi, eh? Dove? Non ti vedo.

in particolare? Sì, al Macabro. Al Macabro. Ebbene, avremo modo di parlare e fare anche qualche riflessione. Esatto. Ora, rispetto a queste ultime cose che ci eravamo raccontato, io ho visto sul tuo blog. Io, guarda, mi sono preparato un po' di cosette da dire. Se vuoi posso parlare un po' liberamente, poi mi fai delle domande. Allora, noi ascoltiamo volentieri, insomma, le tue riflessioni e poi, insomma, faremo anche delle domande qualora, insomma, dovessero sorgerne. Beh, cari ascoltatori, aprite bene le orecchie. Aprite bene le orecchie, mi raccomando. Senti, volevo parteciparvi anche di alcune mie esperienze che credo sia abbastanza interessante anche per voi ascoltare, perché avete così anche un po' il polso di quella che è la cultura europea. Io proprio domenica scorsa sono tornato da Bucarest, dove si è tenuta la fiera, nell'ambito di una più generale esposizione, anche un'esposizione e quindi un festival del libro, diciamo un salone del libro. È stata un'esperienza molto interessante perché sui media, questa diciamo almeno sui giornali italiani e non credo altrove, si è apparsa questa notizia di questa festa del libro. Credo che nemmeno diciamo nello Stato sia molto, nello Stato rumeno sia molto propagandato. E ho avuto la maniera di come dire, accertare quella che è un po' il tasso di chiarimento della cultura italiana, perché ho avuto anche il piacere di ascoltare un traduttore di poeti come Quasimodo, Ungaretti, Montale, Saba, credo un esperto traduttore che ha tenuto anche una conferenza, Ilie Costantin si chiama questo autore, una conferenza in rumeno, tra l'altro è una lingua che noi ovviamente io non conosco, però ho capito quello che diceva perché si riferiva un po' alle biografie del rumeno, alla cultura. Questo particolare fatto che questi poeti è riuscito a individuare le loro, come dire, residenze geografiche, vale a dire i luoghi in cui erano nati e dove avevano operato. Conosceva molto bene la vita di Ungaretti, che è nato Alessandro in Egitto, che ha avuto esperienze a Parigi e vissuto a Parigi, che poi era originario della Toscana, ha parlato di Saba che era di Trieste, di Montale che era della Liguria e di Quasimodo che è siciliano. E questa è stata una riflessione molto interessante perché fa capire come la cultura italiana proprio, diciamo, trascende quello che è tutto il discorso di una, come dire, un atteggiamento provinciale che si può avere in altri campi, il confronto con l'estero è lo specchio della nostra cultura. Certo. Specchio della nostra cultura, perché lì si vedeva, diciamo, che la cultura italiana, per risalire ai tempi di Dante Petrarca, è molto amata da coloro che magari ne sono cultori. E questa esperienza l'ho avuta anche al Salone del Libro di Torino, dove c'era un eminente accademico di Francia, Yves Bonnefoy, forse non è molto conosciuto, ma ha tenuto una lezione magistrale su Leopardi e sulla memoria delle parole, e veramente avevano una conoscenza e, diciamo, un amore approfondito per l'Italia, per quella che è la cultura, e questo veramente fa piacere per chi gira e si rende conto attraverso queste esperienze come possiamo essere apprezzati. Io voglio partecipare a questo tipo di questo genere. Silvio, a proposito, tu hai parlato comunque di poeti comunque con un certo spessore culturale e anche, insomma, espressione poi di premi un Nobel, esatto, premi Nobel, espressione di un certo tipo di cultura italiana. Quanto invece hai potuto notare relativamente alle correnti moderne? Cioè, c'erano, magari si conoscono autori come Saviano, faccio insomma un nome a caso semplicemente perché è uno dei più quotati anche all'estero, oppure autori più recenti come per esempio penso a Moravia, penso a Elsa Morante o ad altri ancora un po' più recenti. Poi c'era gli altri che hai citato dei moderni italiani, tranne questi poeti, perché io poi sono andato a vedere lì dove era diciamo, anche una pubblicazione bilingue, che prende in romeno, c'era Petrarca tradotto in romeno. Però dei moderni, che so, ti cito magari un Lucarelli, che è abbastanza conosciuto adesso attualmente, sì. Conduce nella televisione italiana Blu Notte, ha scritto parecchi operi sì. gialli. E diciamo, quei moderni che noi conosciamo, tipo che hanno avuto anche un successo editoriale, tipo Umberto Eco, Moravia, e altri di cui tu parli, beh, io veramente questi non li ho visti. Ricordo che ma non l'ho visto. Io ti devo dire questo: quando il poeta rumeno, che è il traduttore dei nostri moderni, Quasimodo e Ungaretti, ha tenuto la conferenza, purtroppo non gli faccio un piacere nel dirlo, però eravamo pochissimi ascoltatori e come italiano c'ero io, mi sembrava una mosca bianca, quindi magari gli editori forse inviano i testi già tradotti e le case editrici del posto li hanno esposti, ma per quanto riguarda proprio la presenza italiana, forse perché l'ospite d'onore, come in ogni salone del libro, lì era la Spagna, e quindi magari non c'era un'attenzione per l'Italia. Io ricordo anni fa di avere partecipato, vengono diciamo pubblicizzato molti autori di quella letteratura. Ricordo a Francoforte, per esempio, c'era la Turchia, che comunque devo dire che autori italiani moderni, magari qualcheduno che ha avuto, come dire, lo spirito intraprendente di farsi tradurre, allora c'era il testo in quella lingua, ti ho detto Lucarelli. Saviano l'ho visto, e Saviano l'ho visto anche altrove, quello senz'altro, ecco. Secondo te... Interrompo se mi vuoi fare qualche domanda per non andare da solo. No, potrei... non ti preoccupare. È interessante quello che dici, perché in realtà poi dimostra anche un'altra cosa, che è un po' collegata anche a quello che tu dicevi prima, che poi l'immagine che può dare il nostro paese all'estero, quindi un Saviano che è tradotto in tutte le lingue, complimentandomi comunque con lui perché sicuramente avrà un modo di scrivere arguto, io non ho mai letto nulla di Saviano, però immagino che insomma per aver avuto tutto questo successo avrà anche uno stile che riesce ad appassionare. E tu che sei un po' più nell'ambiente, secondo te questo successo è dovuto a quello che scrive Saviano? Io oppure credo che molte volte chiaramente è dovuto anche al momento presente, cioè dal soggetto che parla di temi abbastanza di attualità e scottanti, anche se sono se è letteratura che diciamo è un po' uno specchio dell'attualità. E quindi è un in Italia è un personaggio diciamo molto seguito e sostanzialmente questo si riflette anche all'estero. Ma a questo punto sostanzialmente noi stiamo adesso parlando, oltre che del bene dell'Italia, diciamo della nostra cultura, di tutti quelli che sono i nostri beni culturali, anche di quelli che sono poi gli aspetti negativi, no? Ma quelli li cogli magari nel discorso con il tassista che fai mentre ti accompagna, che so, alla fiera dall'albergo o meno, e ti dice quelli che sono poi i mali che noi qui in Italia conosciamo, e che questi autori attraverso anche diciamo il rischio della propria quotidianità riescono ad affermarsi. Certo. Io comunque, ritornando ai moderni, che tu mi dicevi, che vengono conosciuti e sono un po' tradotti all'estero, per esempio c'era uno che mi ha colpito e insieme con La Capria, ricordo allora c'era Henry De Luca, Consolo, questi autori qui, ecco, diciamo che credo sia conosciuto in ambito della cultura francese anche Sciascia. Però pure Leonardo Sciascia. Silvio, e Camilleri o Ammaniti o De Carlo, questi sì, scrittori? Anche gli hanno, sì, anche quelli, sì, esattamente, sì. Ricordo di averli visti in librerie francesi o in altre occasioni all'estero, ecco, diciamo. Quindi riescono ad avere anche vogliamo... Dimmi, Silvio, sì. Pronto? Sì, Silvio. Vogliamo parlare di un autore moderno sconosciuto che ha cercato di farsi pubblicità attraverso la vostra radio? Certo. Prego. Silvio, allora, dal tuo... Parliamo un po' scherzosamente della mia persona, della mia... Assolutamente, opera. No, era giusto per una curiosità personale, magari, insomma, arrivare a... Lo sapevo che si definiva sconosciuto, Silvio, lo sapevo. Ma per i nostri ascoltatori ormai, Silvio, non credo che sia... Sconosciuto al grande pubblico. al grande pubblico, insomma. Amici, tra i conoscenti si è conosciuto. Al grande pubblico i nomi li avete fatti voi, gli autori effettivamente italiani moderni, contemporanei, ecco. Forse questo era il termine più che moderno. Contemporanei li abbiamo un po' citati tutti. Perché, vedi, tra queste stelle, tra queste stelle c'è anche una stella più piccola che però, vedi, è molto luminosa, che cerca di farsi spazio e che arriva a trasmettere comunque un suo messaggio. Non so se tu hai... Tu hai colto, scusa Mari, tu hai colto due aspetti veramente interessanti, vorrei dire, l'autore che si fa spazio e il messaggio che vuol dire, che poi erano un po' i temi di cui io volevo parlare. Se ho qualche po' di tempo posso andare così un po' avanti, cioè voglio dire questo, in qualsiasi autore, tra l'altro oggi c'è questa possibilità per chi ha l'hobby della letteratura o della scrittura, perché rimane un hobby e non certo una professione, e allora magari invece di seguire le partite di calcio o andare impegna piccole somme presso piccoli editori e diciamo fa pubblicare un po' di sue poesie, prose, romanzi, senza eccessive spese, perché siamo in quest'ambito. Tra l'altro a Roma in genere a dicembre si tiene una salone della piccola editoria, insomma, che favorisce proprio questi aspetti, per cui oggi credo che tutti quelli che possiamo definire anonimi scrittori, la letteratura sommersa, ha la possibilità di esprimersi grazie anche alla vostra opera, per esempio, certo. Persone che non hanno la possibilità di parlare in pubblico su altri canali possono con le radio private esprimersi bene. Assolutamente. No, proprio questo volevo dire, che l'autore effettivamente deve scrivere delle opere per generare la sua identità di autore e quindi ritrovarsi poi in compagnia di persone, diciamo, più illustri. E chiaramente il suo messaggio, quello che vuol dire, io guarda, ti dico questo, l'ho individuato proprio attraverso una lettura che facevo di un autore francese, un grosso filosofo francese, Paul Ricoeur, il quale in Tempo e racconto, veramente per me è stato illuminante quello che ho letto, perché mi spiegava un po' anche qual era forse quel pensiero sotterraneo che io non conoscevo e che spinge a scrivere, non solo me, ma spinge a scrivere coloro che, diciamo, vogliono e riescono a farlo, perché ovviamente uno si propone di farlo, poi nel realizzarlo può incontrare o avere il libro nel cassetto oppure l'espressione, insomma, non riesce ad arrivare alla carta stampata. Se vuoi io te lo cito testualmente, perché credo che quando si dice uno scrittore voglia dare un messaggio, il filosofo francese Paul Ricoeur ne ha dato una definizione in questo suo saggio Tempo e racconto in maniera estremamente soddisfacente. Guarda, ti ascoltiamo molto volentieri. Di citarlo direttamente? Sì, certo, vai. Certo. Allora, dice Ricoeur, che noi raccontiamo delle storie perché in definitiva le vite umane hanno bisogno e meritano di essere raccontate. Ecco, questo forse è il motivo principale. Questa evidenza acquista tutta la sua forza quando noi evochiamo la necessità di salvare la storia dei vinti e dei perdenti. Tutta la storia della sofferenza grida vendetta ed esige di essere raccontata. Queste sono bellissime parole, che effettivamente fanno riflettere e che ci dicono qual è la molla, l'espressione. In genere un libro si dedica o a una persona cara oppure o anche uno spettacolo teatrale, un film, a delle persone sconosciute o a un gruppo di persone che ricordano determinati eventi della storia o meno. Quindi io credo che quando uno vuole raccontare storie di uomini che ha conosciuto, eroi del quotidiano, quelli che magari non hanno avuto la possibilità di raggiungere nessuna pubblicità nella storia, pur vivendo condizioni tragiche con altri personaggi più famosi. E ecco, io, diciamo, il mio tema, che tu magari conosci, che già abbiamo parlato, il giallo macabro o meno, poi io ho sentito, mentre entravo, diciamo, andavamo in onda, che tu avevi dato quel radiodramma, ecco, perché io vorrei parlare di qual era stata pronto? Sì, Silvio, esatto, noi abbiamo trasmesso, prego. Abbiamo trasmesso allora, i primi minuti. Quello che è un po' l'ispirazione del radiodramma, se tu hai mandato un po' alcune note, oggi diciamo un mezzo molto di espressione che raccoglie molti ascoltatori o frequentatori e internet. Su internet con il blog sostanzialmente abbiamo proprio tutto un popolo che, di persone che comunica, e lì c'è anche la possibilità, adesso l'ho scoperto, di fare i videomaker, cioè i famosi videoclip. Ora io ti devo dire questo: quando per la prima volta incontrai voi la radio e mi avete dato, e vi ringrazio ancora, questa opportunità di potermi esprimere per radio, e io allora pensai a un'esperienza che ho fatto quando ero giovane, diciamo quando ero adolescente e andavo a scuola. Cioè ricordo di aver sentito una sera, prima di addormentarmi, allora sentivo la radio con l'auricolare, un radiodramma, era la vedova di un astronauta, non so chi fosse l'autore del radiodramma, era un astronauta che si era perso nello spazio, e fu molto suggestiva. Anni dopo, diversi anni dopo, quando ho avuto questa esperienza, girando anche per Bruxelles, guardando il Palazzo di Giustizia o meno, e nell'occasione di quella mostra del crimine che ci fu, e allora quella esperienza antica si è di nuovo riaffacciata alla mente, ho fatto un po' quel radiodramma. L'avevo fatto anche per voi, perché infatti vi avevo rubato i nominativi dei personaggi. Sì. Perché un po' chi poi scrive chiaramente non fa altro che riconfigurare la realtà anche attraverso le riconfigurazioni altrui. Cioè noi guardiamo la realtà non solo attraverso il nostro sguardo, diciamo creativo, quando vogliono fare gli scrittori, ma anche attraverso lo sguardo degli scrittori che ci hanno preceduto. Io ultimamente leggevo Gogol, e leggendo Gogol riconosci lo stile che aveva anche Alessandro Manzoni, il quale poi lo diceva espressamente che si rifaceva un po' a Gogol, quell'ironia sottile del racconto che poi fanno dell'autore veramente un classico, lo rendono diciamo un personaggio nella letteratura della propria lingua. Silvio, io... E vuoi forse che io dica qualcosa su questi videomaker, diciamo? Sì. Questi videoclip? Sì, ero abbastanza... Sulle marionette? Esatto, quella sarebbe stata la mia domanda, proprio sui videoclip e soprattutto sulle marionette. Ecco, vuoi che insomma illustri un po' meglio? Ti dicevo, l'ispirazione principale di questo filo macro delle marionette era nato dal tema che in quel periodo andavo trattando, che è un po' questo... il macabro, ma quello che io ho colto diciamo come tema essenziale, e che poi è stato un po' il filo conduttore, che era anche il filo conduttore della mostra, quindi diciamo in questo senso io non è che riprendevo un motivo già presente fra gli artisti che esponevano, ed era una forma di umorismo macabro, cioè c'era quell'ambiguità in alcune opere. Si vede per esempio uno scheletro che fa fitness, sì. Che fa fitness è chiaramente ambiguo. Si vede diciamo il gigante di metallo che mantiene sostanzialmente una bambola, una piccola bambola molto in alta, che dà l'idea di essere diciamo una persona che invece situato dal gigante, ecco. E molti di quegli artisti, infatti mi sembra che lo dico, giocavano proprio su questa ambiguità, l'ambiguità del messaggio dell'arte, che vuole esprimere quello che è il lato contraddittorio dell'esistenza, perché sostanzialmente io per esempio avevo letto, a proposito di quella mostra tenuta lì a Bruxelles, in un blog, credo in lingua francese, tenuto da un avvocato, di cui riuscivo a capire le motivazioni, diceva: ma lì, insomma, in quel Palazzo di Giustizia così austero si è tenuto delle opere che francamente insomma offendevano un po' quello che diciamo, e qui entriamo anche nell'aspetto di quelle che sono le motivazioni degli artisti, vale a dire offendevano, erano un po' ripugnanti, effettivamente si vedono delle opere che rappresentavano un po' dei lati poco piacevoli dell'esistenza. E io anche lì sostanzialmente riconoscevo quella che era la saggezza delle parole di Aristotele. Aristotele spiega bene perché noi vogliamo scrivere cose orrende, terribili, quindi rientriamo anche nel macabro, nel giallo. Dice, perché noi vogliamo parlare o scrivere di cose orrende e raccapriccianti? Perché non abbiamo il timore di farlo? Proprio per quel desiderio di conoscenza, per sapere come stanno le cose. Ah, certo. E io, prego? No, infatti. Vuoi intervenire? Altrimenti diventa anche un po' monotono. No, no, no, no, volevo dire correre. Che effettivamente è così, nel senso allora, che c'è questo senso di verità che poi, ma manco di verità, di conoscenza che ci spinge poi ad andare oltre. E il macabro poi è l'altra faccia della medaglia, è tutto quello che non si vede, che quindi lascia forse anche più spazio all'immaginazione. Indubbiamente, ed è l'immaginazione appunto che in genere è vera, forse la frase, il verosimile è più bello del vero, proprio perché, per usare le parole di Montale, scabro ed essenziale com'è la realtà, indubbiamente la fantasia e l'arte deve tendere ad abbellirla, per poterla rendere in immagine diciamo anche piacevole da fruire. Ecco perché fanno i film dell'orrore o altro, perché scatenano quelle emozioni che però sono emozioni che fortunatamente non rispecchiano una situazione reale, ma soltanto una situazione immaginaria. Però io credo che sia questo un po', diciamo, la spinta sia di coloro che sono gli autori, sia di quelli che poi in sostanza vanno a guardare questi spettacoli o meno. E volevo concludere su quel blog dove leggevo appunto della ripugnanza di queste opere che lui non definiva opere d'arte. E indubbiamente lì è una forzatura, su questo proprio non c'è dubbio, che quando l'artista deve rappresentare, specie in quel caso il crimine, lo deve rappresentare nella maniera più ripugnante possibile. Certo. Infatti c'erano delle opere, poi se uno se le va a vedere si rende conto che al di là di quella che è diciamo, l'attività di produzione artistica, il risultato è un risultato quantomeno, solo con una punta di ironia, insomma, sostanzialmente si possono vedere certi spettacoli, ecco. Un'ultima mia considerazione, poi magari correggimi se sbaglio nell'interpretazione. Tuttavia la tua descrizione del macabro è molto variegata, perché hai saputo coniugarne diversi aspetti. Chi legge Gigi Funebri troverà sicuramente un contenuto diverso da quello che era stato l'uomo camuffato di cui avevamo parlato già qualche tempo fa. E mi sembra di intuire che i temi sono ancora diversi, seppure il filo conduttore è sempre lo stesso, nella tua ultima raccolta di racconti, che è Un nuotatore d'inverno, di cui ho letto alcuni frammenti proprio sul tuo blog. Sì, guarda, ti ringrazio per la domanda che mi hai fatto, perché effettivamente mi dà la possibilità. Io effettivamente sono partito dal giallo, perché con L'uomo camuffato volevo raccontare una storia che poi volevo commentare nell'uomo di ferito. Io parlo di miei temi, quindi uso solo i titoli per non parlare. E dove volevo parlare dell'uomo, sostanzialmente l'uomo di ferito, anche attraverso una tua osservazione, mi hai fatto capire che non era soltanto il ferito nel tempo, ma anche il ferito nello spazio, cioè esatto. Tratta di persone diverse. E indubbiamente l'ho affrontato anche con umorismo nei Gigli Funebri o in altri miei titoli. E ti ringrazio anche per aver visto Un nuotatore d'inverno, perché lì scivolavo su altri temi, che erano il tema dell'esilio e il tema dello straniero, che sono temi molto, molto interessanti. Io li tratto con un certo punto di ironia, con un certo umorismo, sarà anche l'età. Io infatti ho visto scrittori di una certa età, diciamo, dare un po' una pacca sulla spalla a giovani autori più impegnati e diciamo, ridimensionare quella che è un po' poi l'impegno nella vita che sostanzialmente viviamo tutti in quello che ha di precario. E nel nuotatore d'inverno già il titolo, no? Sì. Indica diciamo un po' questo aspetto elegiaco, perché è un po' una contraddizione, il nuotatore è il nuotatore d'estate, invece il nuotatore d'inverno chiaramente c'è una affermazione di voler andare oltre il tempo che oramai sta scadendo, diciamo, per una persona. Quindi già è intonato anche un po' a questo tema dell'elegia. Ma c'è anche il tema dell'esilio dello straniero, il tema dell'esilio dello straniero che io ho sperimentato magari in questi ultimi due o tre anni in cui con più frequenza, al di là di quello che era il periodo delle vacanze, ho potuto un po' girare, un po' per l'Europa e un po' in Nord Africa, qualche viaggio così fatto. E allora sentire quella condizione, che è poi la condizione del migrante, di qualsiasi persona, uno scrittore sul tema dell'esilio, ce ne sono diversi, c'è Enrico Maria Remarque, c'è Kundera ultimamente, c'è Ullman, quello che ha scritto Amico di Travaglio, certo. Un grande successo. E ci si accorge effettivamente che tutti parlano della stessa cosa, cioè che l'esilio principalmente è una sofferenza. Dante Alighieri era un esiliato. Se non fosse stato esiliato dalla sua patria, credo che noi non avremmo la Divina Commedia. Io questo tema dell'esilio riesco quindi a capirlo, anche se diciamo, fortunatamente io non ho vissuto questa condizione di migrante o di esiliato, almeno finora. Ho vissuto in Italia con grande piacere, ma riesco a cogliere e mettermi in sintonia con questi sentimenti, viverli emotivamente e poi rappresentarli attraverso qualche tratto di racconto, ecco, perché effettivamente si avverte il sentimento che può cogliere coloro che vivono lontano un po' da quella che è la loro patria di origine. E qui si collegava con l'altro tema, che è appunto il tema un po' portato avanti da un punto di vista filosofico-religioso dall'agnosi, no? Uh-huh. Cioè che l'anima è straniera sulla terra e si risveglia e non trova la sua propria patria d'origine che disabita, mentre abita un luogo che gli appare appunto lontano da quella che è la sua abitudine, e per cui il suo comportamento è un comportamento strano, ecco perché viene chiamato lo straniero. Questo è un po'. Però guarda, ti devo dire che continuo anche sul tema dell'umorismo macabro con qualche tocco fantascientifico, perché non l'ho pubblicato sull'internet o meno, però mi diverte un po', diciamo, questo tema. Ecco, non che mi diverta, riesco a esprimermi su quello che è l'umorismo macabro. Se vuoi ti posso dare un titolo e spiegartelo per farti capire un po' come affrontavo diciamo questo tema. Il gaudio della vita morente. Cioè, se già capisci che la vita morente deve godere, allora da dove nasce questo titolo con un raccontino che avevo già iniziato? Nasce, tu forse lo sai come me, che a Napoli nell'ospedale degli incurabili c'è la scritta Hic gaudet mors sub pudere. Esatto, sì. No? Cioè effettivamente la morte si mette a disposizione della vita. Io ho rovesciato questo motto, il gaudet vita succurrere mortem, perché poi è un racconto che ancora non ho finito, e allora nasce il titolo Il gaudio della vita morente. Beh, speriamo di leggerlo presto, però. Un po' quella che è la genesi, perché io ho scritto un altro tema, i gigli funebri. Gigli Silvio, Funebri, ma questo come ti viene in mente di parlare di gigli e di coniugarli con quello che è un aspetto funebre o meno? I gigli che sono simbolo di purezza o meno. Mi trovavo una volta a Milano, se vai dalle parti di Brera c'è Via dei Fiori Oscuri. Allora mi era venuto in mente di intitolare magari il racconto i Fiori Oscuri, poi capivo che non potevo farlo, i gigli oscuri, poi i gigli diventano gigli d'ombra, gigli neri, gigli funebri, ed ecco che si genera un titolo, insomma, certo. E lo si affronta con una certa ironia. Silvio, mi senti? Credo debba sempre accompagnare un po' lo scrittore. Silvio. Tu mi lasci parlare, io forse annoio, ma la radio credo che abbia anche un po' questa funzione per coloro che l'ascoltano, che magari quando sono in viaggio di sentire una voce monotona. No, fermiamo. Silvio, purtroppo il nostro tempo però ormai è agli sgoccioli, nel senso che ci manca... È scaduto. Mancano 9 minuti. Il tempo in radio è tiranno in maniera particolare. Silvio, noi ti ringraziamo veramente di cuore di questa chiacchierata effettivamente molto variegata, che ha toccato poi tanti temi, seppur in maniera breve. Però, secondo me, se tu sei d'accordo, noi ci possiamo risentire con la nuova edizione di Bruxellando, perché da settembre lanceremo la quarta edizione. E allora potremo approfondire magari questo tuo ultimo tema, di cui avevi poc'anzi accennato qualche idea, sulla fantascienza. Che ne dici? Sì, con estremo piacere. Facevo proprio questa considerazione, sperando di presentarmi puntuale all'appuntamento prossimo. E allora, non c'è problema. Da parte nostra, piena disponibilità. La vita è sicuramente imprevedibile. E mai mettere limiti. No, ma sono convinto che ci sentiremo presto. Adesso ti cito Manzoni. Il cuore mi dice che ci rivedremo presto. Quando lascia Lucia. Sì. Va bene, allora. Bisogna essere fiduciosi nella Divina Provvidenza. Assolutamente. Noi ti auguriamo delle ottime vacanze, un'ottima scrittura creativa. E allora ci risentiamo prestissimo. A dopo le vacanze. Ti ringrazio molto e mi dispiace che Georges Laurent non abbia potuto farmi una delle sue solite piccanti domande, perché bellissimo in questo. Ma me la riservo per settembre, non ti preoccupare, ci saranno. Non avremo senza. Mi ha fatto molto piacere sentirvi, vi ringrazio per avermi fatto esprimere, ci sentiremo presto e comunque senz'altro cambieremo altre informazioni. Grazie. Benissimo, buona serata. Grazie, veramente. Ciao, a grazie presto. Silvio, ciao. Grazie, arrivederci. Librangolo. Vediamo se riusciamo a rompere il record del librangolo più veloce di tutta la storia. Ecco, e oramai già l'orologio è già partito, mamma mia, Dio santo. Stiamo parlando di Monica Ali, che è una scrittrice di origine bengaliana, però che è cresciuta nel Regno Unito. Allora, io ve l'avevo menzionato già una volta a proposito del suo primo libro di gran successo, che si chiamava Brick Lane e che è stato tradotto in italiano come Brick Lane, tanto per aiutarci un attimino. E in cui si trattava di una storia un po' agrodolce di una ragazza che dal Bangladesh viene portata nel Regno Unito per essere sposata ad un tipo del Bangladesh che ci era già ad una persona stabilito. Che viveva in Inghilterra. Sì. Esattamente, e si tratta della sua storia, di come cresce come persona, come donna, di come arriva fino a ritrovare se stessa come individuo e come persona. Vi raccomando questo libro proprio calorosamente, anche perché è soffuso di un senso dell'umorismo molto fine, che ti fa sorridere spesso in attimi proprio assolutamente inaspettati. E che è un umorismo che rende tutto questo libro ancora più umano di quanto lo è già, perché è basato proprio di una conoscenza di animo umano, di vicende umane abbastanza profonde. Quindi ve lo raccomando come prima cosa. Poi, però, adesso ultimamente ho letto il suo terzo libro, già ho saltato un libro, mi dispiace. Questo suo ultimo libro si chiama In the Kitchen e meraviglia l'hanno tradotto come In the Kitchen. Di cui hanno fatto anche un film, quello è Soul Kitchen. Scusate la confusione. E di Brick Lane hanno fatto un film, anche se io non l'ho visto. Comunque, In the è Kitchen è una canzone vecchia, Penny Lane. Ah no, scusa, un'altra. È un'altra. E quindi mi stai frenando, non riesco a arrivare fino al piano quinquennale. Ecco. E quindi, allora, in The Kitchen si tratta invece di una cosa assolutamente diversa. Si tratta della storia di un chef che sembra di avere la sua vita abbastanza sotto controllo, ha una ragazza a cui vuole bene, ha un sogno di aprire il suo proprio ristorante, però avviene qualcosa, e quello che avviene è che trovano uno dei suoi collaboratori dell'Est Europa morto nei sotterranei. Non è quel che pensate, perché non è veramente un giallo, non è un giallo affatto. Quello che si scatena invece è una trasformazione della vita di Gabe, dello chef, che lui non sembra di controllare, ma in un certo senso è anche c'è qualcosa di lui che si sveglia, che lui, di cui l'esistenza lui aveva negato. E quindi, di nuovo, si tratta di una decostruzione e costruzione del personaggio, se lo possiamo dire così. È un libro molto interessante, diciamo, ma interessante da vari punti di vista. Interessante dal punto di vista del tumulto personale che vive lo chef, ma è interessante anche dal punto di vista dalla presentazione del mondo del catering, diciamo, dei grandi ristoranti, perché uno ovviamente, cioè, magari a tutti noi è già venuto in mente almeno una volta di aprire un piccolo ristorante e praticamente di cominciare un'altra vita. Qua vediamo non il piccolo ristorante, ma il grande ristorante con uno chef che proprio ha conoscenza ai dettagli chimici e scientifici dei piatti che sta creando. Però anche un mondo in cui praticamente l'immigrato è praticamente la figura centrale, cioè fare i suoi collaboratori c'è soltanto uno inglese, anche quello è lo più sfigato, se posso usare questa espressione, e tutto il resto della gente viene, cioè c'è gente precaria praticamente, perché sta scappando ci sono delle storie nel libro che sono agghiaccianti. Si tratta di persone che erano dei guerrieri bambino, che poi scappano la loro sorte, arrivano in Inghilterra, cominciano a tagliare verdure in un ristorante, e tutti questi personaggi si riuniscono e fanno parte del suo mondo. Come fa parte del suo mondo anche suo padre, che invece ha questa relazione tipica di odio e amore verso gli immigrati. Tipo, gli immigrati ci fanno schifo, ma allo stesso tempo saluto con calore il mio vicino Ahmed, che è una persona molto brava, eccetera. Cioè, è un mondo variegato che rispecchia abbastanza le contraddizioni del mondo dell'Ovest. Come adesso c'è parzialmente una cura dei diritti umani e dall'altro lato invece una cecità quasi voluta rispetto alle persone che sono immigrati, che vivono fra di noi e che scappano, esattamente cercano almeno di scappare da condizioni abbastanza, diciamo, forti. E con questo vi raccomando questo libro calorosamente, e anche se non era il libro anglo più veloce della storia, chiudiamo. Beh, in seconda posizione. Beh, tutto sommato, dai, ci siamo difesi bene. Cari amiche, cari amici, noi siamo alla fine di questa nostra puntata. Ringraziamo Dani M in regia, che sta soffrendo nel veder vincere il Brasile 1-0, però che insomma, con la Corea si sapeva che probabilmente il Brasile potesse vincere. Noi auguriamo a tutti voi una splendida settimana. Forza Azzurri, speriamo insomma di andare lontani, e ringrazio. E Forza Sole, Forza Sole anche a Bruxelles, che speriamo regga, e ci vediamo quindi martedì prossimo. Un abbraccio, ciao! Ciao!